Piazza Vittorio Emanuele II, meglio nota come la Catuma, era ed è tuttora, per superficie, la più grande piazza della città. Come tutti i piccoli e i medi centri, anche Andria ha nella piazza centrale il salotto buono, il riflesso fedele delle dinamiche sociali. Lungo il perimetro di Piazza Vittorio Emanuele II, e non è un caso, si affacciano tutti i palazzi dell'allora potere: il Vescovado, sede di rappresentanza della Chiesa Cattolica, il Palazzo Ducale, sede della massima autorità politica, e il Palazzo del Governatore, sede del potere civile. Piazza Catuma di giorno era la passerella delle passeggiate domenicali, quando la solcavano, accennando saluti col capo, il sacerdote e il canonico, il maestro e il funzionario comunale, il medico e lo speziale. Di sera invece, quando ogni sole calava, anche il sole della domenica, si riempiva di braccianti brulicanti e scuri che qui si incontravano a offrire le proprie braccia ai caporali per la mattina di lavoro successiva. Centinaia e centinaia di uomini, che potevano contare solo sulla forza delle proprie mani, hanno offerto se stessi ogni sera ai latifondisti della zona e ai loro crudeli caporali. Resi irrimediabilmente curvi dalla fatica dei campi, con le facce bruciate dal sole e le mani nodose, i braccianti andriesi hanno occupato Piazza Catuma di sera fino a tempi recentissimi, in una lotta titanica per emergere dalla miseria, per ottenere riscatto sociale ed emancipazione. Resi resistenti da una familiarità con la fatica praticamente millenaria, sudavano per permettere a figli e nipoti di lavorare, per ottenere il diritto al voto e guadagnarsi un minimo agognato benessere. Una sfida caparbia contro un tempo qui immobile, di sicuro altrove più veloce. Me li ricordo bene quegli uomini, gettavano il sangue per davvero, mi dice commossa Annina, e ne portavano i segni sul corpo, erano tutti curvi come se fossero storpi. Sono stati tempi feroci, continua Annina. Ai braccianti mettevano la museruola per impedire che mangiassero l'uva mentre la raccoglievano. Come rimanere indifferenti ora che questa società è cambiata così in fretta da non lasciare traccia di tutto questo? Alcune parole di Annina mi colpiscono più forte delle altre. Gettare il sangue è un'espressione meridionale, spesso legata al lavoro e alla stanchezza. Un'immagine di inequivocabile efficacia per evocare il lavoro come maledizione divina, come sofferenza e sforzo. Di tutto questo resta oggi la Domenica degli Andriesi, di ogni età ed estrazione, pur se lontani da quel mondo difficile, ancora oggi la domenica mattina sfoggiano per le vie del centro il loro abito migliore, l'auto tirata a lucido, e tornati a casa mettono in tavola il loro pasto più ricco con tutta la famiglia riunita.